buonasera, buonasera a tutti e bentornati qui sulle frequenze di Radio Wombat. Questa è Tonight Alive e la sigla di stasera era uno dei due album della svolta elettrica di Miles Davis. Questo era uno dei, appunto, dei due capolavori della cosiddetta svolta elettrica. Era Bitches Brew del 1970, però non è la puntata su Miles Davis, non mi permetterei mai, cioè non la potrei mai fare, visto il rispetto e il timore incredibile che mi metterebbe fare una cosa del genere. Però partiamo da qua, perché la puntata di stasera è sui Weather Report, gruppo cardine, uno dei gruppi fondamentali, diciamo, di quello che poi è stato definito fusion, ovvero l'incrocio fra il jazz e la musica rock. E perché siamo partiti da Miles Davis? Perché appunto i Weather Report sono in un certo senso considerati lo spin-off del secondo grande quintetto di Miles Davis di metà degli anni 60, e appunto che poi andranno a formare i Weather Report. Ma aspettiamo un attimo prima di cominciare con tutto, che poi mi intorto. Ricordiamo a tutti i nostri ascoltatori i nostri indirizzi, il modo per venire a contatto con noi qui di Radio Wombat, per darci dei feedback o qualunque cosa che vi venga in mente. Ovviamente il sito, come ripeto sempre, ormai lo dovreste conoscere, wombat.noblogs.org. La nostra frequenza per le zone di Firenze in AM, nelle onde mediocri, sulle onde medie della zona fiorentina, è sempre 1359-1359 sul vostro autoradio, per sentirci anche in macchina se siete nelle zone di Firenze. La nostra posta, la nostra mail è sempre postawombat@insiberia.net. I nostri canali social per sentirci giovani sono sempre su Twitter, twitter.com/radiowombatfi, e su Facebook, facebook.com/radiowombatfirenze. Ma ritorniamo a bomba, come dico sempre. Devo ritornare a bomba perché sennò mi scordo tutto. Accidenti alle riunioni pre-Wombat, anzi, sarebbe, fossero sempre così prima delle trasmissioni, sarebbe fantastico. E appunto, partiamo da questi Weather Report, che sono una branchia del gruppo che poi compose insieme a Miles Davis i due album elettrici, ovvero In a Silent Way del 69 e Bitches Brew del 1970. Quella appena sentita appunto era Bitches Brew, il secondo album elettrico tra virgolette di Miles Davis. E come comincia? Tutto inizia perché Weather Report, ovvero Joseph Eric Zawinul, detto Joe, al piano, e Wayne Shorter, il grandissimo, il leggendario Wayne Shorter, al sax sia tenore che soprano, si incontrarono per la prima volta e divennero subito amici nel 1959, mentre stavano suonando insieme alla big band di Maynard Ferguson. E dopo quella prima esperienza, Zawinul andò a suonare insieme al gruppo di Cannonball Adderley all'inizio degli anni 60, mentre Wayne Shorter si unirà ai leggendari Jazz Messenger di Art Blakey fino al 1965, dove poi andò appunto a raggiungere il secondo storico leggendario quintetto di Miles Davis, che in quell'album nominato, chiamato ESP del 1965, un quintetto che va assolutamente ricordato, con Miles Davis alla tromba, ovviamente, Herbie Hancock al piano, Wayne Shorter al sax, Tony Williams alla batteria e Ron Carter al contrabbasso. E durante appunto gli anni 60 entrambi, sia Joe Zawinul che Wayne Shorter, si fecero un grandissimo nome tra i migliori compositori della scena jazz. E poi appunto, come già detto, Zawinul raggiunse Wayne Shorter in quello che poi sarà l'embrione, il nucleo di quella che poi verrà chiamata musica fusion, appunto con i quintetti di Miles Davis. Infatti, entrambi facevano parte, come già detto, dei gruppi di Davis che registrarono In a Silent Way del 69 e Bitches Brew del 1970. Proprio a conseguenza di questa appartenenza che gli Weather Report sono spessissimo considerati uno spin-off del quintetto elettrico di Miles Davis della fine degli anni 70 dell'inizio della fine degli anni 60 e dell'inizio degli anni 70, anche se a dire la verità, Joe Zawinul non fece mai parte della band di Davis durante i tour, era solo a registrare in studio. E appunto gli Weather Report nacquero proprio da una necessità di esplorare, a detta appunto di Zawinul e di Shorter, una musica più impressionistica e individualista, o come ha detto Zawinul in un'intervista, fare un gruppo che si allontanasse dalle classiche 8 battute che poi finiscono in un bridge. E ci sono un po' di varianti sulla leggenda che narra la nascita degli Weather Report, ma diciamo che quella ufficiale, raccontata da Joe Zawinul, fu che appunto Zawinul iniziò insieme a Shorter a reclutare vecchi allievi, tra virgolette, di Miles Davis, e il primo a essere convinto del nuovo progetto che stavano intraprendendo era il bassista di formazione classica ceco, Miroslav Vitus, che anche lui aveva suonato ovviamente insieme a Miles Davis, che però in quel momento aveva già avuto, cioè un grandissimo musicista ovviamente per essere finito sotto le grinfie di Miles, ma aveva già avuto precedenti esperienze insieme a Herbie Mann, a Bob Brookmeyer, a Stan Getz e a Chick Corea, giusto per nominarne qualcuno. Insieme a Vitus, Shorter e Zawinul si può dire che rappresentano il nocciolo, il core degli Weather Report che poi nasceranno. E tutti insieme, poi, per completare la line-up del gruppo, andranno a reclutare il batterista di McCoy Tyner. Assolutamente leggendario pianista del trio e poi del quartetto del quartetto classico di John Coltrane, e appunto andarono a reclutare il batterista Alphonse Monzon, e poi stavano appunto cercando per il loro nuovo progetto anche un percussionista da affiancare a Alphonse Monzon. E la scelta iniziale andò a scegliere Don Alias, che però per evidenti problemi di carattere, subito dopo essere entrato nel gruppo, poi poco dopo litigò, secondo la leggenda, con Zawinul e mollò il gruppo. E allora le scelte andarono nel reclutamento dell'innovativo percussionista brasiliano Airto Moreira, che anche Moreira stesso era un, diciamo, alunno di Miles Davis. E con Airto Moreira appunto completarono la formazione per poi poter registrare il loro primo disco. Leggenda narra che anche John McLaughlin, il mitico chitarrista, sempre uno dei chitarristi che girarono nelle band di Miles Davis, era stato chiesto di unirsi al gruppo, ma inizialmente McLaughlin, uscito appunto dalle band di Miles Davis, rifiutò, preferendo continuare una carriera solista. Ma arriviamo appunto nel febbraio del 1971, dove esce il primo album ufficiale dei Wither Report, album omonimo, appunto Wither Report, che si presentava come una sofisticata miscela di improvvisazione jazz, ritmi rock e funk, melodie folk e con spiccati accenti etnici. Questo disco è ancora ovviamente molto influenzato dai lavori delle formazioni elettriche di Miles Davis, con cui i due avevano precedentemente collaborato, ovviamente, cioè, non è che poi prendere e alienarti da tutte le tue esperienze precedenti. E se ogni membro della band contribuisce con il suo personale stile di improvvisazione alle tessiture etere e delicate delle canzoni, è però sicuramente Joe Zawinul che spicca sugli altri per i densi e astuti arrangiamenti che congegna con i suoi effetti elettrici ed elettronici. Sue sono infatti le sue composizioni più ambiziose in questo album omonimo, ovvero Waterfall e anche Orange Lady. E per farvi capire appunto di cosa stiamo parlando, da questo primo disco del 71 dei Wither Report, adesso ci andremo ad ascoltare insieme Waterfall, ovviamente qui a Tonight Alive, Radio Wombat. Questa era Waterfall del 1971 e nel 1972 i Weather Report pubblicarono il loro secondo album che è stato I Sing the Body Electric e in questo album già vediamo arrivare un nuovo rimescolamento della band che sarà, come vedremo, una costante della storia dei Weather Report, come sarà, come accade anche molto spesso nel jazz, ci sono continui cambi di formazione e in questo caso questo album, questo I Sing the Body Electric, vede l'entrata nella band di due nuovi elementi, il percussionista Domum Romao, che aveva già collaborato insieme a Cannonball Adderley, insieme a Paul Simon, a Antonio Carlos Jobim, a Jorge Ben e a Sergio Mentes, e il batterista Eric Gravett, che arrivava dalla formazione di McCoy Tyner, anche lui. E questa I Sing the Body Electric apre con una Unknown Soldier di Joe Zawinul, che niente ha a che fare con la Unknown Soldier dei Doors, però ovviamente in piena guerra del Vietnam era un tema, insomma, un tema molto sentito da un certo tipo di musicisti, e in questo caso era di composizione di Joe Zawinul, questa Unknown Soldier. E in questo album poi ci sono anche altri grandi pezzi scritti dagli altri collaboratori della band, ovvero Crystal, scritta da Miroslav Vitus, e anche Surukuku, scritta da Wayne Shorter. Qui in Surukuku, una delle primissime volte in cui in un album jazz si sente il suono di uno strumento elettrico, in questo caso di un sintetizzatore suonato da Roger Powell, che affiancava Joe Zawinul alle tastiere. I Weather Report presentarono al grande pubblico un modo di suonare che, senza essere propriamente improvvisazione di gruppo, derivava tuttavia dal medesimo principio di parità tra gli strumenti. Tutti contribuivano alla generale economia del suono, ognuno sviluppando elementi sia melodici che ritmici. Picchi emotivi vengono raggiunti quando nessuno strumento prevale solista sugli altri e l'emancipazione della sezione ritmica dalla esclusiva funzione di dettare il tempo rende liberi basso e percussioni di partecipare agli intrecci delle melodie e degli assoli. La dedizione di tutti gli strumenti all'aspetto della tessitura della composizione produce una omogenea distribuzione del suono, come adesso ci andremo a ascoltare nella Anon Soldier di Joe Zawinul, sempre i Weather Report 1972, qui a Tonight Alive, Radio Wombat. Thank you. Questa era Unknown Soldier degli Weather Report del 1972 e subito nell'anno successivo, anzi all'inizio del 1973, uscì il successivo album degli Weather Report, ovvero Sweet Nighter, del febbraio del 1973, che è l'ultimo album che vede tra le fila dei Weather Report il membro fondatore Miroslav Vitus al basso. E già da questo album è evidente che Joe Zawinul ha preso nettamente le redini del gruppo, segnando appunto il suono successivo di questo gruppo, influenzandolo molto, molto più di tutti gli altri, appunto poi aumentando ancora di più l'apporto del funk e del groove all'interno delle composizioni. In questo nuovo album, questa nuova via del suono è esemplificata soprattutto nelle due composizioni dominanti di Zawinul, le due lunghe Boogie Woogie Waltz e 125th Street Congress, mentre tutte le altre composizioni dell'album sono come delle reminiscenze delle esperienze precedenti degli Weather Report. Sweet Nighter è considerato l'album più stilisticamente di transizione della band, perché proprio qui avvertiamo appunto questa fase di cambiamento del suono della band, poi in divenire in qualcos'altro. E generalmente la struttura delle canzoni sono più aperte, però molto più strutturate in confronto alla pura impostazione improvvisativa dei primi due album, ancora, come ripeto, influenzati appunto dalla via tracciata dai gruppi elettrici di Miles Davis. E proprio in questo Sweet Nighter avvertiamo ancora di più, maggiormente, la predominanza del suono del basso elettrico rispetto alle precedenti composizioni. Zawinul decise di aggiungere alcuni beat funky nel proprio suono, e proprio all'uopo, come si dice, recluterà un nuovo batterista che sarà Herschel Dwellingham e un nuovo percussionista, Moruga Booker, proprio appunto per dare questo nuovo suono all'album. E in questo Sweet Nighter vede anche l'apparizione di Andrew White al corno inglese, che in alcune canzoni, per sostituire il già di partito Miroslav Vitus, suonerà anche il basso. E da questo Sweet Nighter adesso ci andremo a sentire appunto una delle due composizioni cardine di Zawinul, ovvero ci andremo a sentire 125th Street Congress 1973, Weather Report, Tonight Alive, Radio Wombat. Wow.

E questa era 125th Street Congress del 1973, appunto dall'album Sweet Nighter, come già detto in precedenza. E l'album successivo del gruppo del 1974 vedrà una nuova alternanza nella line-up del gruppo. Infatti, sarà l'album che segnerà la definitiva dipartita musicale, ovviamente, del bassista Miroslav Vitus dai Weather Report, e Vitus sarà sostituito appunto nella line-up dal bassista Alfonso Johnson, e una nuova addizione al gruppo, come ormai avrete capito, cioè i batteristi volavano via come foglie in una giornata di tempesta nei Weather Report. E in questo album il nuovo batterista è Ishmael Wilburn. Questo album è segnato fondamentalmente da una parità di composizione delle canzoni abbastanza equa tra Joe Zawinul e Wayne Shorter, e c'è anche un ultimo contributo di Miroslav Vitus alla discografia dei Weather Report, ovvero con la seconda traccia di questo Mysterious Traveler, che è American Tango, scritta appunto da Vitus insieme a Joe Zawinul. E appunto ricordiamo la line-up che poi andrà a registrare Mysterious Traveler del 74. Chiaramente Joseph Zawinul al piano elettrico e acustico, e a quella miriade, a quel muro di sintetizzatori che aveva davanti, Wayne Shorter al sassofono soprano e tenore, Alfonso Johnson al basso, Ismael Wilburn alla batteria, e sempre Dum Umromao alle percussioni e alle varie addizioni di batteria all'interno delle composizioni. E da questo Mysterious Traveler del 1974 adesso andiamoci a sentire la traccia omonima dell'album, scritta da Wayne Shorter, ovviamente sempre qui a Tonight Alive, Radio Wombat. Thank you. E questa era Mysterious Traveler del 1974. E il nuovo album, Tailspinning, verrà pubblicato nel 1975, un album nato dopo veramente tantissimi cambi di formazione e non si può altro che definire transitorio. Infatti, fortuna vostra, non vi farò sentire quest'album, lo tralasceremo e ve lo lascio come prossimo album da studiarvi se vi piacciono così tanto i Weather Report. E passiamo subito all'album immediatamente successivo di Tailspinning, ovvero Black Market del 1976, dove al posto di Alphonso Johnson al basso c'è quell'autentica leggenda con il cui nome era Jaco Pastorius. Jaco Pastorius era un bassista incredibile con uno stile tutto suo che definire funambolico è veramente un eufemismo. Suonava il cosiddetto basso fretless, ovvero un ora direte voi cos'è un basso fretless, che differenza c'è tra un basso normale. Il basso fretless è questo basso che non ha i ferri per definire i tasti, quindi come, che ne so, come un violino, come una viola. E questo che significa? Significa che per suonare una nota devi avere una precisione mostruosa, veramente, perché non hai neanche più l'aiuto dei ferretti che ti fanno trovare, al di là di trovare il campo sulla tastiera della nota. Non ti aiuta neanche con quella risonanza data dal metallo dei tasti, quindi devi essere di una precisione veramente millimetrica nel suonare le note, però di contraltare, ovviamente, se riesci a trovare il punto e la nota giusta, suona veramente perfetta e, come ben vi potete immaginare, deve avere una precisione e una tecnica superlativa per poterti permettere una cosa del genere. E in questo Black Market del 1976, Jaco Pastorius intanto appare in due tracce, registra insieme ai Weather Report due tracce e ovviamente in tutte le altre c'era Alphonso Johnson al basso elettrico. E una curiosità, nella foto della retrocopertina, anche se Pastorius aveva fondamentalmente partecipato solo a due canzoni, a due registrazioni di questo album, nella foto di retrocopertina comparivano, oltre chiaramente a Zawinul e a Wayne Shorter, anche Pastorius insieme a Chester Thompson e Alex Acuña. Appunto, anche se Alphonso Johnson, che non era presente nella foto, aveva suonato più della metà delle canzoni al basso nelle registrazioni. E questo album ha sicuramente delle fortissime influenze di stile africano. Infatti, da molti critici è definito come una world fusion, ovvero tra una musica etnica e il jazz rock, ecco. E nella seconda traccia dell'album, ovvero Cannonball, ovviamente Cannonball era un tributo di Zawinul ai tempi di partita del leggendario sassofonista Julian Cannonball Adderley, che come vi ho già detto, aveva dato tantissimo in fatto di membri della band agli Weather Report. Ricordiamolo quindi, dopo tutti questi svariati cambi di formazione, quelli che saranno i componenti dei Weather Report che registreranno questo black market, chiaramente Joe Zawinul e Wayne Shorter, Alfonso Johnson al basso e Jacopo Astorius al basso fretless in due canzoni e alla batteria Chester Thompson, che però in due pezzi, nella prima e nella seconda traccia, viene sostituito da Narada Michael Walden, che è un altro batterista che poi continuerà insieme alla band, che proveniva dalla Mahavishnu Orchestra di John McLaughlin e che era stato fortemente raccomandato da Jacopo Astorius. Poi i due percussionisti, ovvero Alex Acuña e Don Alias, che nonostante i contrasti con Zawinul, poi si vede si sono pacificati ed era ritornato nella formazione ufficiale della band. E adesso da questo album del 1976 ci andremo a sentire un pezzo che spero per voi dalle prime note riconoscerete subito. Questi sono i Weather Report con Black Market del 1976, ovviamente qui a Tonight Alive, Radio Wombat. E questi erano i fuochi d'artificio finali di Black Market del 1976 dei Weather Report. Dicevo appunto, spero che la riconoscerete perché non so se avete notato o se frequentate, ma è la sigla del notiziario di Radio Popolare Network. E, insomma, è Black Market dei Weather Report, sappiatelo. E se fino a Black Market i Weather Report dimostrarono di essere una band innovativa e originale, benché fenomeno di nicchia, lo straordinario successivo album Heavy Weather sarà il disco della definitiva consacrazione della band. La coppia Shorter Zawinul, a iniziare da Black Market, aveva già introdotto elementi di novità nel sound del gruppo, pur restando fermi alcuni capisaldi quali l'approccio elettrico, l'alternanza melodia-ritmo e l'uguale peso delle parti melodiche e soliste. In Heavy Weather, sarà l'intervento di modifica più radicale apportato al sound del gruppo è sicuramente la presenza, come già detto, di Jaco Pastorius in pianta stabile al basso. Musicista provvisto di tecnica sopraffina e capace di rendersi riconoscibile in qualsiasi contesto, garantendo ai comprimari un apporto contemporaneamente melodico e ritmico. Il suo estro e la sua tecnica suonarono pressoché irriproducibili e arricchirono lo spettro musicale della band. L'apporto di Pastorius conferì nuovi stimoli a una formula che stava rischiando di anchilosarsi, ma anche allo stesso Giaco, perché i Weather Report furono un trampolino di lancio per la sua carriera che rivelarono al mondo intero il suo splendore allo strumento. E quest'album è veramente un caposaldo del genere fusion, diciamo. Tra le 8 perle incastonate nell'album, senza dubbio spiccano l'iniziale classica nel senso di cult, di Birdland di Joe Zawinul. L'intero brano si può riassumere in una corsa fatta di deviazioni, discese, risalite e slanci melodici che culmina nel celebre e affabile, indimenticabile tema. E questo appunto è Birdland dei Weather Report del 1977, chiaramente qui a Tonight Alive, Radio Wombat, se no dove? E questa era la famosissima Birdland dei Weather Report. E sempre in questo album, Heavy Weather, il terzo brano dell'album è un pezzo famoso quasi quanto Birdland, ad opera scritto da Jacopo Astorius. Tin Town è ben più di un semplice sfoggio di tecnica trasportata sulle quattro corde, è una melodia sognante, sfuggente, e l'assolo tema di Pastorius dimostra l'eccezionalità dell'artista, sia in veste di musicista che di compositore. Come non citare poi la conclusiva Halona, scritta sempre da Jacopo Astorius, proprio il bassista è qui micidiale, tanto in fase di accompagnamento quanto a quella di solista, anche se, come accade in tutto il disco, riesce a fondere magistralmente le due funzioni, permettendo loro di confondersi con disinvoltura. E appunto Pastorius trova proprio in Acuña, nel nuovo, quello che già era uno dei percussionisti dell'album precedente, un ottimo supporto al suo lavoro. E questa, sempre da Heavy Weather, è Tin Town del 1977, ovviamente Weather Report a Tonight Alive, Radio Wombat. Questa era Tin Town, ovviamente, dei Weather Report. E durante questo 1977, Jacopo Astorius ebbe fortissime connessioni professionali con Joni Mitchell. Infatti suonò con lei per buona parte della metà degli anni 70, e Tra l'altro, Joni Mitchell non solo non ebbe connessione solo con Pastorius, perché in realtà per i suoi due album della fine degli anni 70, ovvero One Reckless Daughter del 77 e Mingus del 1979, prenderà in massa praticamente tutti gli Weather Report come gruppo di supporto per questi due album, a eccezione di Zawinul. Quindi fondamentalmente erano degli album di Joni Mitchell insieme ai Weather Report senza Zawinul. E in questo stesso periodo Wayne Shorter, il grandissimo Wayne Shorter, sarà molto più focalizzato la sua attenzione sarà molto più focalizzata verso le composizioni, le ideazioni dei suoi lavori da solista. Wayne Shorter ha avuto al di là della carriera con Miles Davis e appunto con i Weather Report una importantissima carriera solistica. Infatti, senza ombra di dubbio si può scrivere il suo nome tra i più grandi in assoluto sassofonisti della fine degli anni 70. E anche Joe Zawinul in quel periodo stava iniziando a pensare, a progettare delle idee per un suo futuro album sonista, che voleva allontanarsi fondamentalmente dal suono crudo dei Weather Report in favore delle sonorità più costruite, più orchestrali, sicuramente forse anche più sperimentali e basate sulla registrazione in studio, sfruttando gli overdub multipli che gli studi a quel tempo iniziavano ad offrire a chi si presentava a registrare le proprie canzoni. Comunque, gli Weather Report avevano ancora per il contratto con la loro etichetta del tempo, ancora un album in sospeso con l'etichetta, e quest'album, l'ottavo album, arriverà nel 1978 e si chiamerà Mr. Gone. E questo album è decisamente tribolato. Infatti, come già vi potete immaginare, perché se ognuno seguiva delle idee proprie per far continuare, non era facilissimo far continuare, insomma, l'entità Weather Report tutti insieme. Infatti, per questo nuovo album, per questo Mr. Gone del 78, pensate un po', vennero assunti ben tre diversi batteristi, tra cui il mitico Tony Williams, Steve Gadd e Peter Erskine. E in due brani, pensate, addirittura suona la batteria Pastorius. E Peter Erskine finalmente partirà anche per il relativo tour di Mr. Gone e diventerà poi membro ufficiale della band. Finalmente riescono a darsi pace e a trovare un batterista ufficiale. Un album, definiamolo sì, di passaggio, ma comunque che riesce a mettere a segno più di un buon colpo, come ad esempio And Then, dove presta la voce Maurice White degli Earth, Wind and Fire, e Punk Jazz, scritta da Jacopo Astorius. Ed è proprio questo pezzo che adesso ci andremo a sentire per esplorare le sonorità di Mr. Gone. È proprio questo Punk Jazz di Jacopo Astorius del 1978, Weather Report, Tonight Alive, ovviamente Radio Wombat. Thank you. Questa era Punk Jazz del 1978. Nel 1979 poi uscirà 8:30, che riporta incisioni dalla trionfale tournée del 1978, ma è parzialmente manipolato in studio per ripristinare parti delle incisioni perdute a causa dell'errore di un tecnico, e diviene una sorta di epitome che fotografa in azione una macchina perfetta, quattro uomini che suonano come se fossero otto. Malgrado la presenza di una facciata piuttosto debole e controversi giudizi della stampa, raggiunse un ottimo livello di vendite. E con il successivo Night Passage del 1980, composto di brani inediti registrati dal vivo, la band recupera alcuni stilemi più vicini ad un jazz di tipo cittadino e post-boppistico. Viene reclutato per l'occasione dal solito Pastorius il percussionista Bobby Thomas Jr. e i momenti migliori vengono da Three Views of a Secret di Jaco Pastorius, da l'omonima canzone dell'album Night Passage di Joe Zawinul e da Port of Entry di Wayne Shorter. Degna di nota sicuramente anche l'omaggio a Duke Ellington nella sua cover di Rockin' in the Rhythm. E da questo Night Passage andiamoci a sentire di Wayne Shorter, Port of Entry 1980, Weather Report, Tonight Alive, Radio Wombat. Thank you. E questa era Port of Entry del 1980, ovviamente, dei Weather Report. E da questo inizio degli anni 80, Jaco Pastorius iniziò a mostrare pesantissimi segni di instabilità mentale dovuti all'abuso sia di sostanze che di alcol, che poi in definitiva stroncheranno la sua carriera negli anni a venire. E soprattutto in questo periodo è il rapporto tra appunto Pastorius e Zawinul che si sta definitivamente incrinando. Infatti il tastierista vede nella dominanza sul palco del batterista un qualcosa che inficia, che rende meno nella musica del gruppo. Infatti, Jaco Pastorius in quel periodo era abbastanza molto più concentrato a ideare il suo secondo LP da solista, che sarà Word of Mouth del 1981, che registrerà a New York, mentre Zawinul lavorerà sul nuovo album dei Weather Report in California. Quindi già vi potete immaginare un attimo come stavano andando le cose. E questo nuovo album dei Weather Report sarà ancora un altro, per l'ennesima volta, per la seconda volta, omonimo. A dispetto, questo è del 1982, a dispetto del primo omonimo, che era l'album di debutto del 1971, e questo nuovo Weather Report, nonostante sia stato registrato nel 1981, non vedrà la luce che nell'anno successivo, nel 1982. In questo nuovo album la dominanza di Joe Zawinul nelle composizioni e nelle orchestrazioni dell'album, del gruppo, sarà ancora più pronunciata rispetto agli altri album. E come già detto, Pastorius userà la maggior parte delle sue capacità creative per il suo lavoro solista, Word of Mouth, anche se il suo contributo alla lunga suite centrale di quest'album è ovviamente fondamentale. Anche il contributo di Wayne Shorter sarà minimo, come già detto. Infatti praticamente tutte le composizioni sono a opera della penna di Zawinul. E infatti anche Wayne Shorter era più che altro occupato a portare avanti la sua carriera solista, molto più definiamolo con un apporto molto più filosofico e jazzistico nei confronti della musica. E a proposito del contributo di Wayne Shorter al sound della band, in una intervista postuma poi ammetterà che in quel periodo, nei Weather Report, lui era tuttora un gruppo, però si asteneva completamente dal proporre cose nuove e suonava e basta. E come già detto, l'album vede la band cimentarsi con un opus quasi totalmente zawiliniano. E infatti Shorter firma soltanto When It Was Now, presente nell'album, mentre Dera Factor 2 è accreditata a tutta la band. Il disco non è sicuramente ammiccante né tantomeno facile, anzi, le composizioni sono al solito complesse e molto ben suonate. Tuttavia aleggia un eccesso di celebralismo che va a discapito di un genuino coinvolgimento emotivo, da segnalare, come già detto, sicuramente la suite in tre parti chiamata New York City. E da questo appunto ennesimo eponimo album, Weather Report, adesso ci andremo ad ascoltare la composizione scritta da tutti insieme, visto che, come già detto, era tutta opera di Zawinul, invece per farvi ascoltare adesso non vi potevo far ascoltare la suite centrale, perché sennò davvero facciamo mattina. E ci ascolteremo questa Dera Factor 2, che è appunto, come già detto, l'unico pezzo scritto a otto mani da tutta la band, tutta insieme. Quindi queste sono ovviamente i Weather Reports con Dera Factor 2. Siete sempre qui a Tonight Alive, chiaramente sulle frequenze di Radio Wombat. questa era Dera Factor 2 del 1982. È proprio il ritardo nell'uscita di questo album del 1982 segnerà la definitiva rottura dell'attuale line-up della band. Infatti, alla fine di quel 1981, Pastorius metterà insieme il Word of Mouth Big Band, che includeva anche Erskine, e per i suoi concerti in giro per il mondo. E praticamente questo sancisce la definitiva rottura di quella che è definita la formazione classica degli Weather Report. Joe Zawinul e Wayne Shorter continueranno a pubblicare album a nome Weather Report, ma con il secondo, con Wayne Shorter, molto più concentrato sui propri percorsi artistici. Quindi diciamo che la band si avvierà verso un dignitoso finale di carriera che proseguirà fino al definitivo scioglimento nel 1986. Nel 1987 sappiamo che fine è andato a cercarsi quel genio folle di Jaco Pastorius, che per dovere di cronaca, per chi non lo sapesse, il suo nuovo divertimento nella sua botta fotonica in quegli anni era andare a provocare risse in giro, cioè volontariamente andare a provocare risse in giro per locali e luoghi, finché ovviamente incontrò qualcuno che non era proprio della stessa idea per questo divertimento, e in questo caso era il proprietario di un locale, se non sbaglio, della provincia americana, che però, guarda caso, era roba tipo campione nazionale di non so che cosa di arti marziali, e gliene dette talmente tante da sbriciolarlo tutto, farlo finire in coma, e da lì a breve, insomma, Jaco Pastorius ci lascerà in questo modo assurdo, cioè per quello che poi è definito da molti come il più grande bassista elettrico della storia tuttora. Pensate un po' che fine era andata a scegliersi. Comunque, tuttora la musica dei Weather Report si presenta appunto ancora attuale, molto più di espressioni artistiche successive, anche se la band ha vissuto istante per istante un forte radicamento nei propri tempi, cogliendo con straordinario anticipo e inquietante preveggenza i segni di un inevitabile mutamento, di un cambiamento necessario, che l'avrebbe poi portata a incarnare forse il progresso più impressionante avuto nella sfera del jazz moderno negli anni 70 e 80. Perché non è un mistero: Zawinul, Shorter, Pastorius e Vitus e gli altri hanno saputo abbracciare e sviluppare appieno l'idea sottostante alla rivoluzione strutturale del secondo quintetto de Vissiano, non più tema a soli tema, ma we never solo, we always play solo. Come diceva Zo Zawinul, che in questo caso non era più una semplice boutade da intervista, ma era proprio la realtà di quello che la band incarnava. E prima di lasciarvi al concerto dei Weather Report che ho scelto per voi stasera, ricordo sempre il prossimo appuntamento in diretta qui sulle frequenze di Radio Wombat con La fuga del gatto, della Mari e la Vi de con Bloody Mary e la Virgi domani alle 6 di pomeriggio di domenica per la ripresa delle orecchie e dell'anima dalle fatiche del fine settimana. E il concerto che ho scelto per voi stasera, che come sempre ricordo è solo per chi ascolta la diretta e le repliche e non è contenuto nel podcast, è un live al Luna Park di Buenos Aires del 19 luglio del 1980. Un concerto veramente fantastico che mi è piaciuto tantissimo. E in questo caso, in quintetto, ricordiamo sempre chi sono gli autori di questo concerto. Ovviamente Joe Zawinul alle tastiere e a tutti i sintetizzatori, Wayne Shorter al sax, Peter Erskine alla batteria, Jaco Pastorius al basso e Bobby Thomas Jr. alle percussioni. E non mi resta che darvi appuntamento con le prossime trasmissioni di Radio Wombat e per quanto mi riguarda il prossimo appuntamento è con Basement Records sabato prossimo, ovviamente sempre qui sulle frequenze di Radio Wombat. Un buon sabato sera a tutti dal vostro penafoco e continuate a sentire Radio Wombat. A settimana prossima! Ma la mattina? Il pomeriggio? E poi la sera? Ma cosa ascolti? Era di Wombat! Era di Wombat! Era di Wombat! Era di Wombat!